Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, in una trasmissione che prende il via con un dovuto ricordo del vignettista Alfredo Chiappori, un'importante figura della satira contemporanea ed un compagno di strada per tanti di noi, disegnatore e sceneggiatore di Appeal Sovversivo, poi di tante strisce con Cellerini, bombaroli fascisti, agenti del SID e della CIA, magistrati collusi e notabili democristiani tipo Andreotti, un suo bersaglio preferito. Più recentemente, nel 2011, con la stessa verve satirica, ha scandagliato anche il nostro risorgimento nel volume Storie d'Italia 1846-1896. Allora, ascoltiamo dalle sue parole una sua presentazione del libro a strisce. I protagonisti, dei personaggi quelli che così fanno la storia in quanto protagonisti, no? Il rapporto con gli inglesi, quante sciocchezze si sono dette poi tra l'altro, no? Quando si dice che lo sbarco a Marsala di Garibaldi fu protetto dalle navi da guerra inglesi, io mi ricordo che con Giorgio Candeloro abbiamo affrontato l'argomento e ci siamo fatti di quelle risate incredibili, perché anche Candeloro diceva, Alfredo, guarda che le navi inglesi, sai perché erano lì? Mica per difendere Garibaldi, per difendere le fabbriche di Marsala, che erano di proprietà dell'Inghilterra. Però anche questa favola è andata. Garibaldi, dal canto suo, non era da meno di Mazzini nelle contraddizioni, perché sì, l'eroe dei due mondi, prima corsaro, poi eccetera eccetera, marinaio, naturalmente, per l'amor di Dio, non vogliamo esagerare nelle cose, però in certi atteggiamenti veniva fuori di una contraddizione così disarmante. Quando lui, io gli faccio dire, quando tutti gridano viva Garibaldi, quando stanno arrivando a Napoli, viva Garibaldi, e lui implora, per favore gridate anche viva Vittorio Emanuele, perché lui, come faccio dire, lui aveva in fondo inventato il compromesso storico, perché lui, repubblicano, però voleva, insomma, per lui l'unità d'Italia doveva arrivare prima di ogni altra cosa, anche a costo che l'Italia fosse in mano ai Savoia. Però quando lo tiravano da tutte le parti, perché lui era ormai conosciutissimo, a Londra facevano l'effigie di Garibaldi, compariva sulle saponette, sulle scatole. Ne ho comprata una che ho trovato in un negozio di bric-a-brac nella campagna inglese, c'era una di queste, sì, coperchio di una scatola di saponi con Garibaldi. Con Garibaldi, certo. Allora, così era un mito, no? Che girava per tutte le Europa. Ma quando i patrioti polacchi, no, sulla spinta di quello che avveniva un po' dappertutto, e quindi pensando a Garibaldi come il loro aiuto fondamentale, no, per lottare, chiedono l'intervento di Garibaldi, Garibaldi, sapete cosa risponde? Mi spiace, non posso venire, solo artrite. E questo è Garibaldi che lo dice, e lui ogni tanto la storia dell'artrite gli funzionava, perché quando non andavano tanto bene le cose, e lui si riparava dietro queste affermazioni. E così, che dire anche di Cavour? Cavour era il cinico però sottile, no? Ecco, quindi leggere la storia secondo me è un fatto assolutamente necessario, perché è proprio attraverso la lente della storia che noi riusciamo a illuminare una realtà che ci circonda, che ahimè non è delle più entusiasmanti, ma così è. Davvero il mio desiderio è quello di vedere un'Italia molto diversa da quella che ci appare quotidianamente. Ecco, il problema, come sempre, è come arrivarci, e io per parte mia continuerò a fare il mio lavoro, sempre convinto che però da sola la satira non basta più. Sembra facile, ma non è difficile. Facciamo la canzone solo usando le vocali. Garavalda paparata, paparata nana gamba, garavalda cacamanda, cacamanda barsaiar. Garavalda paparata, paparata nana gamba, garavalda cacamanda, cacamanda barsaiar. Solo quelle che ce l'hanno bella stretta la pronuncia, perché è molto acuto il pezzo. Perché la U deve essere profonda. E per finire la versione in codice fiscale, solo consonanti. E poi solo vocali. A seguire torniamo sulla graphic novel Sepolti Vivi, racconto di una lotta di minatori in difesa del loro posto di lavoro. Narrazione tratta da un antico reportage giornalistico di Gianni Rodari apparso sul numero di Vie Nuove nel 1952 e recentemente tradotta in strips grazie alla matita di Silvia Rocchi, i testi sono di Ciro Saltarelli, un racconto che rivela le difficoltà e le sperimentazioni grafiche per rendere quell'unità di popolo sopra e sotto la terra. Silvia Rocchi. La contrapposizione tra l'intimità del racconto, quindi della coppia che si che cerca di in qualche modo di incontrarsi, perché di questo si parla, e la coralità invece della comunità. Ci sono 860 minatori che sono sottoterra e poi ovviamente sopra ci sono tutte le famiglie, tutti i vari personaggi che fanno di sfondo al racconto e i vari paesi. Quello che mi è successo a me come disegnatrice, come illustratrice, è stato di essere innanzitutto molto colpita proprio dal ritmo dell'articolo e poi in secondo luogo dall'idea del disegnare così tanti corpi, appunto, così tante situazioni di sforzo, di disagio, anche perché quello che si trova sotto alla miniera ovviamente è qualcosa che non ci riusciamo a immaginare. Di solito io quando lavoro a un libro, quando mi immergo in una storia per raccontare qualcosa di nuovo, la sfida è subito andare a cercare le fonti e quindi andare a cercare le immagini, degli appigli visivi ai quali io possa in qualche modo aggrappare ritrovarmi e riprenderli in qualche maniera. In questo caso, innanzitutto c'è da dire che ovviamente la miniera esiste soltanto come parco minerario e archeologico, quindi è diventato un museo di fatto, dove si va appunto come parco per visitarlo, ma tutto quello che era lo sforzo fisico dei corpi che c'erano lì sotto ce lo possiamo soltanto immaginare, anche sentire attraverso qualche racconto di nipoti che abbiamo avuto la fortuna di conoscere. E quindi quella parte lì ovviamente mi è mancata, perché non sono riuscita a vedere moltissime foto, se non appunto una dozzina, non di più. E quindi che cosa abbiamo fatto? Ci siamo affidati completamente alle parole di Rodari e alla forza evocativa e alle suggestioni visive che danno appunto le parole di Rodari. Una cosa che mi sono immaginata è che loro, pensate, sono 860 persone, occuperanno la miniera di fatto meno persone, però che tanti rimarranno in superficie. Però immaginatevi comunque il grandissimo sforzo sia fisico che dello starci lì sotto. Ci staranno per quanto? 40 giorni. 40 giorni. Questi 40 giorni loro sono sotto, e quello che ci è sembrato davvero la grande forza di questo articolo è riuscire a creare un contesto nel quale comunque qualsiasi lettore di Vie Nuove, il giornale dove era apparso, potesse in qualche maniera immedesimarsi anche proprio per il discorso dei personaggi che fanno da sfondo. Un altro punto importante e centrale rispetto al mio lavoro proprio a livello pratico di disegno è stato il giocare sui contrasti, sulle ombre e sulle luci. Quindi come lavoravano sopra prima dello sciopero e come poi sono stati sotto durante appunto questi 40 giorni. E quindi come prima cosa ho scelto delle palette, dei toni che mi rappresentassero in qualche modo la luce, il fuori, l'esterno, la comunità, il paese, la centralità del lavoro e l'importanza della comunità. E invece al contrario il buio, la resistenza, la determinazione che avevano questi minatori sottoterra. E quindi il libro di fatto, se poi lo sfogliate, è tutto un alternarsi di luce, buio, ombra, buio, luce. Le case, le pietre ed il carbone dipingeva di nero il mondo. Il sole nasceva, ma io non lo vedevo mai, laggiù era buio. Nessuno parlava, solo il rumore di una pala che scava, le mani, la fronte, hanno il sudore di chi muore, negli occhi, nel cuore, c'è un vuoto grande più del mare. Ritorna alla mente il viso caro di chi spera, questa sera come tante in un ritorno. Ferma il respiro di chi è fuori, paura, terrore sul viso caro di chi spera questa sera come tante in un ritorno. Yeah.

sempre di più. Certo la terra è come una donna, ogni stagione cambia la gonna. È gialla d'estate, grano maturo, rossa d'autunno, vino sicuro. E verde oliva se viene l'inverno, a primavera si veste da sé. Vado a lavorare, ma stasera che si fa. E dopo questi racconti così duri, così realistici della condizione lavorativa, in particolare dei minori, negli anni 50 e anche 60, andiamo all'attualità, dove il mondo del lavoro è perduto, ha perduto il senso, e quindi per ritrovarlo molti disegnatori lo ripropongono il tema in una ottica di mondo distopico o anche horror. Parliamo di 24/7, ovvero 24 luglio, prodotto da Nova e che viene presentato nell'intervista di Rachele Copparoni. Sono in collegamento con Nova per parlare del suo fumetto edito per Bao Publishing 24/7. Il fumetto è ambientato in un supermercato e 24/7 ovviamente indica l'orario di apertura di un esercizio che è aperto 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. E vogliamo raccontare un po', parla la storia poi. Difficilissimo senza dare anticipazioni perché non sono capace, però parla di un gruppo di commessi di questo supermercato aperto tutto il giorno, tutti i giorni, che rimangono ovviamente coinvolti in una aggressione da parte di mostri mutanti all'interno del supermercato. Una caratteristica che almeno io ritrovo all'interno dei tuoi fumetti è un po' una critica sociale più o meno nascosta, spesso rivolta a lavori che fanno i giovani ragazzi o le giovani ragazze, quindi da la cameriera prima, ora il cassiere, che è appunto la figura di Dante. Da dove viene questa spinta? Non so se è una cosa che ho notato io o se è effettivamente una tua ricerca poi. No, sì, effettivamente è una dinamica che tengo particolarmente a raccontare perché credo che sia molto rappresentativa della mia generazione. In realtà io faccio parte di quella generazione nata nella prima parte degli anni 80 e quindi siamo cresciuti con delle aspettative di posto fisso, lavoro fisso, delle sicurezze che in realtà è molto difficile raggiungere al giorno d'oggi. E quindi siccome poi tra l'altro io stessa arrivo molto tardi nel mondo del fumetto e mi sono ritrovata nel mondo dei lavori, passami il termine, normali, per praticamente tutta la mia vita, ci tengo a essere portavoce di questa realtà, di un po' la disperazione del voler avere una vita, tra virgolette, normale. Come annuncio di lavoro su un giornale, qui tutto andrà bene, mi ripeto non pensare. Ci offrono un contratto a tempo già determinato, un progetto di 3 mesi, forse verrà rinnovato. Di così di nuovo io sarò disoccupato e sarà sempre lo stesso se non cambierà. È felice colpa della flessibilità e adesso mi conviene di firmare, altrimenti chi lo sa, per G c'è tanta gente che sta ferma per la strada, accanto a me un signore che mi indica un ponteggio. Improvvisamente arriva un'ambulanza, l'infermiere dice che poteva andare anche peggio. L è il lavoro nero sempre più sottopagato, M è la morte bianca per chi non è tutelato, ennesima tragedia di una vita che non vale, ma non fa notizie, solo un brasiletto sul giornale. Però c'è l'operaio che una volta aveva un ruolo almeno, Pio era precario in un call center, non può farne a meno. Con quanti ricatti che è costretto a sopportare, senza ferie, senza malattia, non può neanche protestare. È nella riforma di un lavoro che però dov'è? Se è lo sciopero che il diritto più non è. Di tutte le lotte del movimento sindacale sembrano perdute nell'indifferenza generale. Che brutta storia che vi ho raccontato, Zeta, non ho sonno, ma a letto me ne andrò. Oh.